Letture di Radio 24. Compie 70 anni il bikini, simbolo della libertà delle donne occidentali. In un articolo pubblicato su Panorama, Annalisa Chirico si augura che per i prossimi 70 anni tutte le donne, incluse le musulmane, possano scegliere il costume che desiderano. I 70 anni del bikini, auguri, non sono soltanto la celebrazione di un fenomeno di costume, e mai parola fu più azzeccata. Dalle passerelle ai set cinematografici alle spiagge di un paese intero, il bikini l'ha inventato l'uomo, ma l'hanno scelto le donne. La bomba a due pezzi è un fatto politico. Per la prima volta la bagnante italiana esibisce ombelico, addome e décolleté, con l'inevitabile carico di malizia e imbarazzo che quei centimetri di pelle prima pudicamente coperti portano con sé. Nell'Italia parruccona degli anni 60, il bikini è un grido di emancipazione. Il corpo è mio e decido io. Al mare, pretendo di abbronzarmi esattamente come voi uomini. Voglio sentire il refrigerio dell'acqua che accarezza la pelle e ammiccare quel tanto che basta. Soffia un vento liberatorio che nel decennio successivo metterà a segno importanti conquiste legislative in materia di diritto familiare, divorzio e aborto. L'anelito liberatorio prende le mosse dal bagnasciuga di Riccione? In un certo senso sì. Per questa ragione i soloni del relativismo multiculturale, quelli che ogni paese ha la sua cultura e i diritti delle donne, beh, insomma, dipende da dove nasci, peccano di ipocrisia quando sostengono che lo hijab o il burka sarebbero una libera scelta individuale o che gli abitoni ampi con cui le bagnanti musulmane sono costrette a immergersi in mare rappresenterebbero una rispettabile tradizione autoctona. Le islamiche più fortunate alla moda possono concedersi il burkini, che non somiglia certo al bikini, ma è un burka da mare, con copricapo, casacca e pantaloni. Sottomissione, si chiama così la segregazione balneare delle donne fedeli ad Allah. È la sottomissione a un potere patriarcale fondato sull'interpretazione integrale di una religione. Così, mentre a Madrid la sindaca eletta con Podemos inaugura il 24 luglio la prima giornata nudista nelle piscine municipali, sul Mar Morto le ragazze di fede musulmana si distinguono da quelle ebraiche perché le prime si immergono vestite per poi esporsi sotto il sole cocente con i vestiti zuppi d'acqua. Le seconde, invece, si muovono leggiadre in bikini e si godono il lago salato. Nel 2013 la campionessa di nuoto iraniana Elam Ashghari realizzò la traversata del Mar Caspio in meno di 6 ore, stabilendo un primato nazionale. La Federnuoto, però, le negò il riconoscimento perché la tuta coprente contravveniva alle regole islamiche, evidenziando le forme femminili. «I miei vestiti in acqua erano pesanti come l'uniforme di un astronauta, ma non avevo altra scelta», commentò lei. L'augurio per i prossimi 70 anni è che le donne possano scegliersi il costume che desiderano, bikini o intero, senza sottostare ai diktat di un potere oppressivo. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Annalisa Chirico Evviva la nostra pelle libera, da Panorama del 20 luglio. Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. Letture di Radio 24. Lo scorso 7 luglio il regista Paolo Virzì scrive una lettera aperta al quotidiano La Stampa indirizzata a Maria Edgarda Marcucci, una studentessa 25enne che aveva fatto la comparsa nel suo film Caterina va in città. Maria Edgarda, detta Eddie, attivista NoTav, è irreperibile dal 21 giugno, quando la polizia aveva cercato di notificarle una custodia cautelare di arresti domiciliari per gli scontri al cantiere NoTav di Chiomonte del 28 giugno 2015. Nella sua lettera, dai toni paternalistici e carica di buonismo, il regista di Ovo Sodo minimizza sulle violenze commesse dai NoTav in quell'occasione, accusando invece le forze dell'ordine per quella che, a suo dire, era stata una reazione eccessiva. Nel raccontare la storia della ragazza, il regista fa riferimento a un altro provvedimento notificato alla Marcucci a inizio anno, quando gli attivisti del centro sociale Askatasuna, del quale la ragazza faceva parte, si sono opposti alla scelta del rettorato di affidare un'aula dell'Università di Torino a un'organizzazione politica, il FUAN. Il regista scrive che l'occupazione dei No Global rivendicava qualcosa di molto elementare, ovvero che le aule dell'università servono agli studenti per studiare, ripassare, stare assieme. A chi a questo punto si sta chiedendo perché i No Global, che più di una volta durante la loro contestazione hanno occupato rettorati e aule universitarie, si fossero opposti all'affidamento di un'aula a un'organizzazione politica, va ricordato che in quel caso si trattava di un'organizzazione di destra. Le parole di Virzì, che nella sua lettera paragona l'Italia all'Egitto di Al-Sisi e alla Turchia di Erdogan, hanno avuto un eco tra i magistrati, come racconta Bruno Tinti in un articolo pubblicato sul Fatto Quotidiano. Tinti fa poi riferimento a un altro appello di intellettuali in favore di un'altra studentessa condannata a 2 mesi di reclusione per reati commessi nello stesso contesto. L'appello, scrive Tinti, viene scritto e sottoscritto prima che la sentenza con la relativa motivazione sia emessa, dunque è fondato su un conclamato pregiudizio, che ben emerge dalla tecnica utilizzata, indiscutibilmente mistificatoria. L'imputata sarebbe stata condannata per via di una tesi di laurea contenente opinioni criminalizzate dalla Procura della Repubblica. Ci sconvolge che tutte le tesi di laurea siano potenzialmente oggetto delle letture inquisitorie dei magistrati. Tesi assurde, come ben emerge dalle parole stesse degli improvvisati difensori. La studentessa si sarebbe limitata a un'osservazione partecipante, vero ossimoro, poiché chi semplicemente osserva non partecipa e chi partecipa, per definizione, non si limita ad osservare. Queste legittime, ancorché infondate, prese di posizione hanno avuto un eco tra gli stessi magistrati. Alcuni aderenti ad Area Magistratura Democratica le hanno segnalate sulle mailing list, invitando i colleghi a riflettere, a valutare la possibilità di errori giudiziari, a considerare l'eventualità che i reati addebitati all'imputata difesa da Virzì siano frutto di calunnie, di cui evidentemente i magistrati inquirenti e giudicanti non si sono accorti. Si sono dichiarati turbati e hanno chiesto agli stessi malaccorti colleghi i chiarimenti necessari. Il tono mellifluo e l'esibita precisazione che, certo, se sono stati commessi reati è doveroso procedere, ma davvero, hanno condito l'improvvida iniziativa di insopportabile ipocrisia. Iniziativa improvvida? Sì, certo. Dove sono le manifestazioni di solidarietà di cui sono stati gratificati tutti i magistrati criticati e vilipesi in occasione di indagini e processi sgraditi al potere? Non si sono accorti i magistrati di Area MD dell'ostilità politica e sociale che circonda la Procura di Torino quando si tratta di reprimere le violenze dei Notav? Il principio di legalità per questi procedimenti deve essere accantonato? Le mistificazioni di Virzì e compagni devono avere un eco così autorevole? Ma soprattutto, si interroghino questi magistrati sul loro inaccettabile collateralismo. Si confrontino con l'entusiasta attivismo, le sdegnate denunce, le preoccupate richieste di pratiche a tutela esibite ogni volta che comportamenti delittuosi analoghi commessi da appartenenti ad associazioni di destra sono stati pubblicamente difesi e i magistrati che le perseguitavano criticati e minacciati. E si preoccupino, perché le ricorrenti accuse di politicizzazione rivolte alla magistratura trovano alimento anche in queste malaccorte posizioni partigiane. E quello che avete ascoltato era l'articolo di Bruno Tinti, Notav, le iniziative improvvide dei magistrati, dal Fatto Quotidiano del 21 luglio. Mentre in Italia le mamme che lavorano faticano a vedersi riconosciuti i propri diritti, in Germania il governo annuncia il progetto di un assegno mensile da 300 euro per i genitori che ridurranno dal 10 al 20% l'orario settimanale di lavoro per dedicare più tempo ai propri figli. La ministra della famiglia Manuela Schwesig stima che l'operazione avrà un costo per il bilancio dello Stato di circa 1 miliardo di euro l'anno. Visto dall'Italia, questo è forse l'aspetto della vicenda che colpisce di più. Nel nostro paese la spesa pubblica per la famiglia è pari all'1% del PIL, a fronte degli interventi per gli anziani, che tra pensioni e spesa per la salute corrispondono al 20% del PIL. Per quanto riguarda il merito dell'intervento, bisogna tenere conto della situazione in Germania. Qui, a differenza dell'Italia, le donne lavorano quasi quanto gli uomini. Il tasso di occupazione delle tedesche ha superato il 68%, mentre le italiane sono ferme al 47%. Il problema a Berlino e dintorni è che le tedesche sono molto spesso assunte part-time, mentre i mariti lavorano a tempo pieno. Di qui l'intervento del governo. L'idea è quella di incentivare una distribuzione più equa del tempo dedicato ai figli e di conseguenza sottratto al lavoro. Il governo tedesco ha presentato il caso tipo di una coppia che guadagna 3-4 mila euro al mese lavorando entrambi a tempo pieno. Se la mamma lavorasse part-time, le entrate scenderebbero a 2.800 euro. Se invece di tagliare del 40% l'orario di lavoro della mamma, si dividesse equamente il rientro a casa, orario ridotto del 20% per la mamma e del 20% per il papà, allora le entrate familiari sarebbero comunque di 2.800 euro al mese. Ma in più, la famiglia potrebbe contare sul bonus. I 300 euro, quindi, servirebbero a incentivare una suddivisione equa dell'orario di lavoro di uomini e donne. Tanto che il bonus andrebbe a tutte le famiglie, senza limiti di reddito, per un massimo di 2 anni entro gli 8 anni del bambino. L'assegno come pensato dai tedeschi funzionerebbe da noi? Negli anni della crisi il part-time è aumentato del 40% e 3 lavoratori a orario ridotto su 4 sono donne. Insomma, il problema esiste, ma non è il più grave. In Italia la questione di fondo è che il sistema fiscale assistenziale scoraggia le donne con redditi medio-bassi dal lavorare. Pochi nidi e troppo cari, spesa per babysitter senza agevolazioni fiscali adeguate, di cui il dilagare del nero, sgravi per il coniuge a carico che rendono meno conveniente il secondo stipendio. Come si vede, gli ostacoli da rimuovere sono numerosi. L'Unione Europea ci ha incoraggiato a intervenire. Nell'ultima legge di stabilità, il congedo per i padri è stato portato da 1 a 3 giorni. Un segnale nella direzione giusta, ma bisognerebbe andare oltre. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Rita Querzè, 300 euro se lavori di meno, la Germania e il bonus a chi sta con i figli, dal Corriere della Sera del 19 luglio. La mania collettiva dell'estate 2016 si chiama Pokémon Go, un'applicazione per Apple e Android che permette di catturare i mostriciattoli dopo averli localizzati grazie al GPS. Un gioco che rappresenta una vera manna per i colossi digitali che lo hanno sviluppato, e non solo per loro. Partiamo dalla app. L'app è gratuita, ma il guadagno matura all'interno del gioco stesso. Le stime circolate finora parlano di ricavi medi giornalieri pari a 1,6 milioni di dollari con le microtransazioni dei cosiddetti acquisti in-app, come comprare un sovrappiù di sfere per catturare i Pokémon. Altre ipotesi parlano di 6,5 milioni. Ognuno dei 26 milioni di giocatori spenderebbe quotidianamente almeno 0,25 dollari. Apple e Google, ad esempio, guadagnano dalle vendite in-app. Secondo le ricerche di settore, a loro va circa il 30% di ogni acquisto. Altra fonte di guadagno potrebbero essere le partnership. La ricerca dei Pokémon è l'escamotage giusto per attirare gli utenti nei negozi nei luoghi di interesse culturale segnalati nelle mappe. Tanto che si parla già di una possibile partnership tra Nintendo e McDonald's. Più saranno i Pokémon nei punti vendita, più saranno i potenziali clienti. C'è già infatti chi ha fondato startup per attirare i Pokémon con una funzione del gioco o chi sta offrendo pacchetti di dati per navigare su internet illimitatamente. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Virginia Della Sala, Pokémon Go, l'isteria collettiva è la manna per i colossi digitali. Da Il Fatto Quotidiano del 19 luglio. Promettevano città più decorose le nuove multe. Fino a 300 euro per chi getta a terra cicche di sigaretta, ma anche gomme da masticare e pezzi di carta, introdotte dal collegio ambientale in vigore dal 2 febbraio. E invece sono un flop. A Roma, dove ogni anno l'AMA raccoglie dalle strade addirittura 1 miliardo di cicche, i vigili non hanno staccato né milioni né centinaia di verbali. Fin qui non risultano multe, informa la polizia municipale. A Torino la prima sanzione per un mozzicone gettato a terra si è fatta attendere un'eternità. È arrivata 72 giorni dopo l'entrata in funzione della legge antidegrado. A Firenze nei primi 90 giorni sono state date appena 2 multe. Stessa storia a Milano, dove i Ghisa hanno elevato solo una manciata di sanzioni. Pure a Bari si procede con il contagocce. A inizio aprile risultavano sanzionati meno di 30 fumatori irrispettosi. Ma i primi a lamentarsi sono proprio i vigili. Contro il fenomeno, dicono, servirebbe una task force. Insomma, tanto fumo, poco arrosto. E quello che avete ascoltato era l'articolo Cicche a terra, il grande flop delle multe da 300 euro, da Panorama del 13 luglio. I contraccettivi non sono figli del secolo scorso, ma esisterebbero dall'alba dei tempi. Esaminando un graffito rinvenuto in una caverna preistorica in Francia, alcuni studiosi hanno dedotto che già 12.000 anni fa l'uomo di Cro-Magnon usasse una sorta di protezione durante un rapporto di coppia. Ecco alcuni dei più fantasiosi esempi di contraccettivi fai da te ideati nell'antichità. Le donne egizie creavano tappi con escrementi di coccodrillo e miele, come riportato anche dal testo di medicina occidentale più antico, il papiro di Caen del 1900 a.C., per impedire allo sperma di penetrare nell'utero. In India, fino al XIII secolo, come contraccettivo è stato usato lo sterco di elefante, considerato più efficace di quello di coccodrillo. Nell'antica Grecia, le donne usavano pozioni da bere o applicare in loco a base di olio di cedro o unguenti di piombo, oppure tamponi di garza imbevuti di miele, punte di acacia e carbonato di sodio. Ippocrate consigliava, dopo il rapporto, di saltare ripetutamente. Talvolta le romane si affidavano a rimedi magici, come per esempio mettere un ragno sotto l'ascella. Mentre nel Medioevo si pensava che il tè di semi fermentati di alberi senza frutto avesse qualità contraccettive, si usava molto anche la tisana di corteccia di salice, che a quanto pare poteva davvero provocare sterilità. Meno efficaci erano sicuramente i talismani tipici del Rinascimento. Il cuore di salamandra messo vicino alle ginocchia o il breve, un foglio di carta contenente una formula magica da appendere, piegato, al collo, con un filo di seta. Avete ascoltato la lettura dell'articolo I contraccettivi fai da te da Focus Storia Collection, estate 2016.